Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Meloc. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Aveva intenzione di scappare, giusto? Allora, sicuramente sì, lui dovrebbe continuare la storia d'amore con la sua compagna, purtroppo è stata interrotta, ecco, prima che arrivasse, che la potesse raggiungere. Che cosa vi ha detto quando lo avete bloccato? Lui ha confermato di aver fatto una grossa stupidaggine. Mi dispiace, veramente, però è così. Ce la faccio, mi stava venendo un attacco di panico. Io domani vedo i miei cani, a me me ne va fre... Ciao! Ciao Flavia! Devo dire che con tanta fatica e tanto impegno, gli unici momenti che escono dalla norma e dall'intorpidimento che ci sta colpendo tutti da qualche mese sono due episodi che mettiamo in correlazione. Lo facciamo perché siamo convinti e ce ne stiamo rendendo conto che non esista più spazio per uscire da quella che è una norma tristissima, faticosissima, in cui si parla soltanto di contrasto, si parla soltanto di sopruso, in cui si parla soltanto di paura, in cui si parla soltanto di malattia, in cui sembra che alcune funzioni corroboranti che fanno parte della nostra natura umana, come fare cazzate per passione, fare qualcosa di irrazionale, qualcosa di folle, semplicemente che siamo smossi dalla radicale spensieratezza di seguire i nostri istinti, la nostra passione, ma non in senso mortifero, nel senso di sopraffare, sopprimere, uccidere, eliminare ciò che ci mette in angoscia, perché non ci fa, ci costringerebbe a fare i conti con noi stessi, con le nostre paure, con i nostri limiti, no, un qualcosa che ci amplifica, ci esalta, ci fa volare sopra le teste di chiunque, ci fa sentire immortali, invincibili, che è la passione, che è la forza irrazionale, distruttiva ma allo stesso tempo corroborante della passione. Nessuno si muove più solo per passione, ci si muove per interesse, ci si muove per paura, ci si muove per calcolo politico, ci si muove per ipocrisia e ci si muove per volontà di eliminare ogni scaturigine di pensiero complesso. In realtà queste due persone hanno fatto atti sconsiderati per passione. Passione, se vogliamo, criticabile, se vogliamo, sulla quale si può discutere, ma per passione. E tanto siamo improntati oggi a una domanda che vi faremo sulla passione, tanto vi preghiamo di guardare in questo momento la nostra versione video, dove il professor Chiappini, che mi manda in onda da Roma, insieme a Pietro Lacorte, mi manda in onda da Milano, si è andato a collocare la sua postazione sotto il balcone di Verona di Romeo e Giulietta, finto tarocco costruito negli anni 60, fatto probabilmente in cemento armato, ma qui migliaia e migliaia di persone vanno pensando che lì si fosse affacciata un giorno Giulietta, ma in realtà quel balconcino fatto da un geometra negli anni 60 ci fa pensare che comunque un monumento alla passione ci vuole, anche se finto, anche se tarocco. Beh, i due episodi li abbiamo fatti sentire nella copertina pensata da Fabrizio Intonti. Uno è l'evasione di Johnny Lo Zingaro. Giuseppe Mastini, ergastolano, criminale, il terrore di Roma negli anni Ottanta, rapinatore, assassino, amico di Pelosi e forse anche implicato in qualche maniera nell'omicidio di Pasolini, persona che è evasa più volte dalla prigione, essendo ergastolano, peggio di così non gli può peggiorare comunque la situazione, evade per la quarta volta a Sassari, dal carcere di Sassari, per un incontro d'amore con la sua prima donna, quella che era una bambina, figlia di giostrai, quando ancora minorenni, fecero la fuitina perché si amavano, le famiglie non volevano, già lui era uno scapestrato e nemmeno la famiglia di giostrai di lei lo voleva come parente, fecero la fuitina. Sono passati tanti anni da allora, sono passati decenni. Johnny lo Zingaro, lei ha avuto una storia, una famiglia, una sua vita, lui ha avuto mille vite contrastate, lui evade per mangiarsi un piatto di pasta con le cozze fatta dalla sua prima donna, che anche lei è una signora di oltre 60 anni, e passano una settimana ospiti di una comunità di preti, una cosa del genere. Comunque lui poeticamente guardava gli alberi, guardava le piante, guardava le farfalle, viveva di questo amore. Lei si appella: lasciateci vivere il nostro amore. Per amore fa questa cazzata, Johnny lo Zingaro rivade nuovamente per una settimana a mangiare spaghettate con il primo amore della sua vita. L'altro episodio, Flavia Vento, soubrette, showgirl, non so bene cosa sia, personaggio televisivo, naturalmente in un momento di non certo fulgore della sua carriera, entra in quella sorta di macchina della sopravvivenza, di quella ordigno di mummificazione che pompa formaldeide nelle vene di poveri personaggi non più in grado di rappresentare il mondo dei VIP, e da loro l'illusione: siete dei vipponi, e quindi entrano tutti nel grande fratello VIP. C'è cioè una sorta di improbabile fratello di Balotelli che esce all'improvviso, e c'è la contessa De Blanc che subito il primo giorno si spoglia ignuda mostrando il suo matronale corpo nudo dalla d'Urso, capito, e fa per prima quel gesto che nessuno ancora ha osato di fare, mostrare il pelo, perché quello in fondo è la maniera per sopravvivere. Flavia Vento, entrato in questo turbine, avendo possibilità di avere una sopravvivenza fittizia per qualche settimana, qualche mese, essendo anche ben pagata, dopo un solo giorno entra in isteria, dice: devo uscire perché i miei 7 cani li ho traditi, li ho lasciati solo, e esce seguita dal ludibrio, dall'insulto, dall'impossibilità di poter fare questa scelta folle, dovrà anche pagare delle penali. Perché? Perché vuole ricongiungersi ai suoi 7 cagnoloni. Un gesto folle, ma un gesto comunque mosso da una passione. Orbene, voi avete fatto nella vostra vita gesti passionali, volete ricordarvi, volete far ricordare che ancora esiste questa possibilità di fare cazzate per passione, non solo passione amorosa, passione di qualunque tipo, qualcosa che vi ha cambiato la vita, un momento epico totalmente sconsiderato, però suggerito e spinto da un gesto di passione. 800 24 00 24, l'onore oggi di riproporre per la prima volta in questa stagione i 30 secondi. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800 24 00 24. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time 800 24 00 24. Mi rendo conto che non siete più abituati a ragionare in questi termini. Soltanto qualche stagione fa era molto facile parlare di passioni. Questa è una radio che ha come suo slogan ricorrente che la passione si sente. Beh, io la passione da un po' di tempo non la sento più, non vedo più persone muoversi per passione. Anche la politica, che era il luogo principe in cui si compivano gesti per passione, è diventato il luogo del calcolo, è diventato il luogo dell'ipocrisia, è diventato il luogo del post che risponde al post, e della foto tarocca che risponde alla foto tarocca, e dell'escamotage, dell'espediente, è il luogo della tristezza. Ogni moto della politica è legato alla tristezza, è legato allo squallore, è legata a una sorta di comunicazione che ormai è simile a quella dei ragazzini su TikTok, che non sapendo come giocare giocano facendo una gara a chi impersonifica meglio un deportato in un lager nazista. Si mettono il pigiama a righe, si truccano la faccia macilenta, i capelli non se li tagliano, quelli non si toccano. C'è questa nuova gara di cui poi gli opinionisti si scandalizzano, di cui si parla, dove saremo arrivati, signora mia? Beh, il dove saremmo arrivati, signora mia, in questo momento, in questo esatto frangente, non è che mi preoccupa tanto per quelle che saranno le derive violente che ci saranno comunque, l'entropia ideologica che c'è comunque, la mancanza di capacità di elaborare c'è comunque, ma la mancanza di passione. Nessuno fa più niente per passione. Un gesto folle, simbolico, non negativo e non deleterio e non omicida nei confronti degli altri, non confondete assolutamente, non c'è nulla di passione nell'omicida, nel femminicida, nel colui che uccide o sopprime o picchia un'altra persona perché dice non mi lasciare che ti amo, no, quella non è passione, patologia e criminalità. La passione è qualcosa che non porta danni al genere umano, porta magari dei danni a noi stessi. Abbiamo cambiato la nostra vita, abbiamo fatto un investimento sbagliato, abbiamo investito tutto quello che avevamo in un'idea utopica che in realtà tutti gli amici dicevano che era un fallimento, o abbiamo pensato di cambiare la nostra vita seguendo il sogno di vivere assieme a una persona, pensando che l'amore ci avrebbe compensato di ogni altra inadeguatezza dal punto di vista disagio economico, dell'allontanarci dalle nostre zone in cui viviamo più facilmente. Quindi 800240024, mi raccomando, fatemi sapere, datemi un briciolo di speranza che ancora qualcuno ha fatto una cazzata per passione. Potrebbe essere per amore, potrebbe essere per un'idea folle, potrebbe essere per qualcosa che in realtà in qualche maniera tutti ci hanno sconsigliato, ma l'abbiamo fatto lo stesso. Pronto, Elena? Amore mio? No, non sono morto, Elena. Mi trovo a pochi chilometri da te, Elena. Ma che fai, amore? Piangi? Piangi, ora figlia, emozionata, non riesci a parlare. Quanto mi piace. Parla, dimmi qualcosa, Elena. Due casse di birra? Ma che dici, Elena? Ah! C'è la mamma, non vuol far sentire che parlava con me. Elena, è tutto un romanzo, sai, quello che ho passato. Sono venuta apposta da Roma per parlarti, per vederti, tesoro. Lo sai quanto desidero rivederti, amore? Alberto Sordi, in un film di un periodo storico lontano, Una vita difficile, un film del 61, un ex partigiano che arriva a Roma da Dongo per vedere Elena, la donna che durante la guerra l'aveva nascosto e addirittura ucciso un tedesco per salvarlo. E naturalmente questa sua passionale scelta poi lo sporrà naturalmente a quello che è il titolo, Una vita difficile. Oh, Ferdinando, finalmente, Ferdinando, un coraggioso, un ardito, che questa mattina in cui non vogliamo parlare di quanto sono cattivi i cattivi, di quanto sono buoni i buoni, di chi è più cattivo, se il bianco o il nero, di chi uccide con più crudeltà, se chi uccide il prete uccide il ragazzo, tutti argomenti che appassionano comunque giustamente la maggior parte dei colleghi, ma oggi vorremmo cercare e scovare dei barlumi resilienti di passione. Ferdinando, è pronto per i 30 secondi? Sì, però spenga la radio perché il mio eco sotto è fastidioso. Non metta okay. Viva voce, pronto, al via, cominci, vada. Okay. Va bene. Pronto, ciao, sono Ferdinando. Volevo dire che non è soltanto l'amore nei confronti degli altri che si può fare una pazzia, ma anche nei confronti di se stessi. Io ho rinunciato a un matrimonio mandando tutto all'aria due giorni prima, proprio perché sapevo e intuivo che poteva essere per me una non tragedia, ma un qualcosa che non mi avrebbe portato nulla di buono. Quindi non esiste solo l'amore nei confronti degli altri, ma il grande amore nei confronti di se stesso. Ho avuto questa illuminazione. È finito il tempo, no, purtroppo. Ligissimo, ligissimo, però è molto chiaro. Entriamo un attimo nell'episodio. Qualcuno direbbe che il gesto di passione è aver abbandonato tutto per seguire la passione. Lei invece a un certo punto ha capito che tutto quello che era socialmente auspicabile, che tutti si aspettavano, che lei si sposasse con questa persona, che iniziasse la sua vita, lei ha capito che era una trappola. Come mai ha mollato tutto all'improvviso? Io dopo 3 anni di fidanzamento, di grande passione, ho capito che c'era una gelosia da parte di questa donna nei confronti del mio mondo, che è composto dalla famiglia, dagli amici soprattutto, e quando ho intuito questa cosa ho capito che per salvarmi dovevo rinunciare, però ormai ero entrato in un Ferdinando, Ferdinando, lei ha fatto una scelta. fra la fidanzata e la mamma, ha scelto la mamma. La fidanzata no, non la era metteva. La mamma, non era la mamma, non era la mamma, era la mia vita, non era la mamma, perché mia mamma viveva Pantelleria, quindi è una storia, è un altro capitolo della vita, quindi non era la mamma. È una sua amica, era gelosa di una sua amica. No, era gelosa della mia vita che è composta da amici, dalle mie passioni, dalle mie cose, quindi non sono un mammone che perché mia mamma così ci ha lasciato quando avevamo 21 anni trasferendosi a Pantelleria. Va bene, era un'ipotesi. È stata una scelta netta. Okay. Quindi a questo punto la sua è stata più una scelta razionale che una scelta passionale. Le ha detto non mi vado a imbarcare in questa storia che mi rovinerebbe la vita, e l'ha capito in tempo. Lorenzo, sentiamo Lorenzo. Lorenzo, è pronto? Sì. Vai, 30 secondi. Stanco di una vita banale, quotidiana, ho preso i miei soldi, mi sono comprato una moto custom e ho seguito un grande gruppo per un anno e ho vissuto un grande momento di libertà che però si è concluso perché eravamo un po' in un'area un po' oscura, limacciosa, e quindi però è stata un'esperienza positiva, si è conclusa bene. Ci stiamo avvicinando. Michele ha scelto l'on the road, poteva essere una scelta che lo portava magari oltre quelli che sono i suoi limiti etici, perché si sa, gli uomini sudati e impolverati che vanno nelle moto, quando si fermano, bevono, fanno uso di droghe, frequentano osterie infestate agli zombie, quindi lui ha preferito lasciar perdere, però la scelta l'ha fatta. Emilia, 30 secondi, vai. Allora, a 52 anni, in pieno Covid, ho voluto aprire un negozio di fiori con due figli, uno 18 e uno 13, in piena adolescenza, però per passione ho aperto questo negozio di fiori. 30 secondi. Pensavo di essere stata lunga. Riempa pure il tempo, quando lo dico in generale, Emilia, quando sentite l'orologio, io sto zitto che non posso entrare nel vostro spazio, è il vostro spazio invalicabile, il Sancta Sanctorum che non posso profanare io. Cantate, ballate, fate qualcosa, riempite. Sì, potete fare quello che volete. Grande scelta, Emilia. Emilia apre un negozio di fiori. Quando tutti stanno a casa, quando nessuno, tutti pensano, anzi, annusare un fiore viene considerato qualcosa che mette in azione le vie aeree, quindi ci espone al rischio, lei fa una scelta rivoluzionaria. Apro un negozio di fiori. È ancora aperto il negozio? È stata un'impresa? Sì, ho aperto a maggio, avrei dovuto aprire i primi di gennaio, poi naturalmente quindi sono stata bloccata. La sua attività sta fiori. Quindi una volta tanto una scelta folle di passione, tutti l'avranno detto, lascia perdere, apri un negozio di mascherine, apri un negozio di disinfettanti, apri un negozio di giornalini zozzi per la gente che sta a casa, l'ha aperto un negozio di fiori e l'è andata bene. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Melog. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. 800240024, finalmente stanno arrivando testimonianze di passione, di persone che hanno fatto scelte che hanno sicuramente cambiato fasi della loro vita, ma erano scelte sconsiderate, irrazionali, sconsigliabili, imprudenti, però erano mossi da un fondo di passione. Michele, buongiorno, sei pronto? Sì, sono pronto, ciao Michele. Vai, 30 secondi, aspetta l'inizio, vai. Michele, 56 anni, per amore mi sono trasferito a Parigi, per amore poi sono ritornato a Bari e per amore ancora 3 anni fa mi sono trasferito a Milano. Nel frattempo con mia moglie, che invece è francese, abbiamo creato una bella famiglia, sono anche laureato in giurisprudenza, sono diventato avvocato, ho fatto un altro lavoro e mia moglie è diventata insegnante. Felicemente siamo pronti a ritrasferirci tra qualche anno in qualche altro posto. Sono scelte che hai fatto per amore, ma se fossero state scelte invece razionali, quale sarebbe stata la tua strada? Ti è andata bene, poi ti è andata bene, non ti sei messo con una rovina famiglia, con una donna ti ha distrutto, ti ha spolpato, ti ha tradito, ti è andata bene, ma qual era la scelta razionale se non fosse stata una scelta d'amore? No, la scelta razionale è di vivere la vita a pieno, quindi per me questo è anche razionale. Vabbè, se è andata bene. Di ogni giorno che stai non vale la pena viverla. Va bene, hai messo sul tavolo la fish nel numero giusto e ti è andata bene. Stella, buongiorno, sei pronta? Sì, sono pronta, ciao. Vai, 30 secondi. Sono Stella, ho 32 anni, avevo un atelier a Milano, un bellissimo atelier che funzionava. Poi ho conosciuto un ragazzo di cui mi sono follemente innamorata, doveva venire lui a Milano, poi alla fine non se l'è sentita e io non ce la facevo più a stare senza di lui, per cui ho chiuso a Milano e mi sono trasferita a Torino, che non avevo neanche mai visitato turisticamente nonostante sia molto vicina a Milano, e ho dovuto ricominciare da capo tutto quanto per amore. Però ti è andata bene. Sì, faticoso, è molto faticoso, delle volte mi manca... Sì, comunque è stata una scelta di passione che ha riazzerato tutto. Finora tutte persone che comunque portano avanti la tesi statisticamente che azzardare, ricordarsi di osare sempre è la maniera in fondo per scegliere la via migliore. La via migliore è quella dell'azzardo, non è quella del calcolo. Tutte le persone che hanno fatto una scelta azzardata, oggi almeno statisticamente tra quelle che chiamano, sono stati contenti. Carlo, pronto? Pronto? Vai, 30 secondi. Allora, io ho 30 anni e faccio l'avvocato, ho 50 anni e faccio l'avvocato, dovrei essere una persona razionale, ma ti dico Nicoletti, se sei un uomo che vive, se non sei uno zombie, un morto vivente, tutte le tue scelte sono ispirate dalla passione, io ne ho fatte tante, sono state cazzate, non lo so, per dire, a 30 anni senza un soldo in tasca ho speso tutto quello che avevo per prendere un brevetto di pilota privato, non mi serviva niente. Degli amici sono morti, mi sono quasi ammazzato, è servito qualcosa, è stata una scelta per passione. Ho smesso di volare quando sono nati i miei figli, ho deciso di diventare pianista e lo sto diventando, ma la scelta fondamentale, mia moglie, l'ho conosciuta nel dicembre 91, a aprile 92 convivevamo a dispetto di tutti, abbiamo due figli, siamo sposati e sono tra un po' 30 anni che stiamo assieme. Allora dimmi tu se la passione non deve essere quella che ti ispira sempre e comunque. Ah, figuriamoci, aspetto lo sponsor di Adinolfi per questa puntata, perché è la celebrazione del sogno d'amore che poi premia le persone che seguono l'idea di un amore per tutta la vita. Mi fa piacere, è qualcosa che su cui ero titubante, dubbioso e scettico, oggi mi state confortando. In realtà chi trova l'amore per la vita è felice per tutta la vita. Beatrice, pronta? Ecco, io contraddico questa cosa. Parti quando parte il timer, vai. Ecco, allora, io avevo 23 anni, facevo l'università, ero molto innamorata di un uomo che era già laureato e che lavorava in chirurgia, e lui mi ha chiesto per favore di procurargli una pentola da paella per sua mamma che era a Monte Carlo e aveva bisogno di una pentola di un diametro molto grande, tipo forniture alberghiere. Io me l'ho procurata e di notte, quando lui era di guardia, ho valcato le soglie dell'ospedale, mettendola di sbiego perché aveva un diametro di un metro e mezzo, arrivando fino alla soglia della sua camera, ho bussato, lui non mi ha aperto perché era dentro con un'infermiera. Cioè, tu hai rischiato il posto, la radiazione dall'ordine dei medici, un processo per peculato e uso improprio di beni pubblici. Ma tu sei da prendere una padella nel senso di padella utenze da cucina o una padella nel senso di presidio sanitario? Fammi capire. No, una padella da cucina da paella, quindi quelle basse. Quelle che usavano, sì, all'ospedale usavano per fare i maccheroncini a burro e parmigiano. Il diametro, quello, il diametro era di 1,5 metri. E non so poi come è andata a finire, perché io l'ho appoggiata davanti alla porta e sono andata via. Però cioè, nella tu mia dimmi, vita descrivi la scena. Dove sei consumato l'atto immondo? Nel retrobottega di una corsia? Dove? No, nella stanzetta del medico di guardia. Era notte fonda. Che luogo, diciamo, noi profani ammantiamo la stanzetta del medico di guardia, luogo di fornicazioni iperboree fra infermiere nude sotto il camice. Questo, diciamo, nella narrazione di Pierino e Bombolo esiste, diciamo, la dottoressa dell'ospedale militare. Purtroppo nel caso mio era così, ma nella mia vita... Tu hai bussato speranzosa di essere premiata di quel pegno d'amore, di quella prova, di quell'ordalia che avevi superato per conquistartelo, bussi con la padella in mano. E hai aperto la porta, hai visto la scena? No, perché non mi ha aperto, ma ho sentito le voci. Poi il giorno dopo tutto era... Lui poteva sempre simulare che si stava facendo mettere un catetere da una volenterosa infermiera, certo. Non poteva inventare una scusa. Una rianimazione per uno svenimento. Ma che voci sentivi? Quale tipo di sussulto veniva dietro quella porta? Esattamente, si sentivano delle voci concitate, perché pensavano magari a una chiamata dalla guardia. Tu che sei un medico hai capito subito che dietro quella concitazione c'era un orgasmatico preludio, è chiaro. E beh, se no un medico. E tu la padella che hai fatto? L'hai lasciata lì, te la sei portata dietro? L'ho appoggiata alla porta in maniera che quando apriva e cadeva addosso, almeno quella deve essere detta. E lui ha detto, guarda questa, dice, oltre i corduta mi ha portato anche la padella, così è contenta la mamma, appunto, è contenta l'amante, contenti tutti. Vabbè. Hai tratto una lezione di vita da questa storia? Sì, no, perché nella mia vita ho fatto sempre tutto per passione, da lì in avanti sempre, ma mi sono trovata bene comunque, perché alla fine mi sono tanto divertita e penso di essere stata anche molto amata, cioè nelle mie scelte io ho privilegiato sempre quello che piaceva a me e quindi il farmi felice, e questo... Il tuo motto sarà la vita è bella come il cul della padella, questo praticamente può essere il motto della tua vita. Più o meno è questo, però il senso è questo. Comunque bene, Francesca ci ha dato finalmente una prova. Questo è un gesto sconsiderato, un medico che rischia la sua carriera per sottrarre una padella dalla cucina dell'ospedale, quindi togliendo sopravvivenza dei poveri malati, pensate, degli anziani agonizzanti che avevano bisogno della pastina in brodo, senza quella padella non avevano nemmeno il sofficino Findus, quelle cose che di solito si danno negli ospedali, o sofficino in generale, senza probabilmente una denominazione così precisa. L'ha portato al suo amore come pegno, vedi, ti ho portato finalmente, come se fosse, che ne so, una preda conquistata per una prova d'amore, e sentiva singulti venire da dietro quella porta, dottore no, così, dottore no, dottore questo no, questo non lo faccio manco con mio marito, dai ti prego, dai sono un medico, puoi fidarti. E ha capito che il mondo era pieno di tradimento, ma lei non si è pentita, perché il suo gesto era ispirato dalla follia amorosa. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024, la dottoressa che ha appena raccontato il suo folle gesto amoroso, che però per lei è stata una lezione di vita molto più importante di un master, di una specializzazione, di un periodo all'estero. Chiaramente non si chiamava Francesca, abbiamo voluto regalarle uno pseudonimo per non aggiungere pericolosa onta alla sua carriera, perché la vicenda della padella magari potrebbe in maniera retroattiva nuocerle, e non è giusto che le nuoccia ciò che lei ha fatto soltanto per amore. E adesso sentiamo la vera Francesca. Francesca, ci sei? Sì, ciao, buongiorno. Ferma lì, parti solo quando... No, ma avevo bisogno di salvare l'onorabilità e la rispettabilità della dottoressa, che tutti già chiameranno da anni la padellara nelle corsie degli ospedali, però in questo momento, visto che l'ha fatto per amore, capiamola, capito? Francesca, pronta? Vai. Allora, io vivevo all'estero, mi ero trasferita all'estero per lavoro, però volevo tornare a Roma per insegnare, quindi la mia passione, seguire la mia passione, e quindi niente, da un anno ho preso l'aereo, mi sono imbarcata con i bagagli, sono rientrata qui per insegnare e non sto ancora insegnando. Ah ok, ho ancora tempo, non sto ancora insegnando perché ci sono un po' di... Dai, finiscila, poca finisci, perché non ho capito molto, ma è mia distrazione fisiologica. Tu cosa dovevi fare e cosa hai fatto? Tu per la passione per il teatro che hai fatto? Allora, sì, per la passione per il teatro anche sono tornata a Roma, quindi ho ricominciato a studiare, cosa che facevo prima di partire. Mi sono partita nel 2015, ho mollato tutto e ho ricominciato a studiare un annetto fa qui. E niente, quindi tra teatro e insegnamento le mie passioni si dividono in questo. Sì, ma c'è una persona, un gesto sconsiderato, una lussura inenarrabile che ti ha spinto a fare questo cambiamento di vita? Sì, c'è anche una persona, ma non è che mi abbia spinto o convinto in qualche modo, ero convinta io. Vabbè, ti rifiuti di essere stata soggiogata dalla passione, quindi non fai parte del campione che non interessa. La tua è una scelta razionale, hai scelto quello che per te pensavi fosse la cosa migliore, hai fatto bene. Però mi sarebbe piaciuto dire ho abbandonato una brillante carriera, delle prospettive fantastiche, soltanto perché ero spinta dal profumo di una persona che, con la quale ho incrociato gli occhi e che poi mai più ho rivisto nella vita, ecco. Vorrei ci fosse qualcuno che mi dice queste cose, ma non me le dirà mai nessuno. Luigi, pronto? Allora, buongiorno. Mi chiamo Luigi. Vai, 30 secondi. 30 velocissimamente. Secondi. Dire, nell'87 ho avuto una stupenda passione con una signora che purtroppo era sposata. Finito a Parigi dopo un anno, l'ho ritrovata 4 anni fa. Io all'epoca ero un single, ancora piacente, ancora belloccio. Avevo avuto una proposta molto interessante con una TV. Poco succede, rincontro questa signora, rinasce la passione, si ammala di tumore. Io che faccio? Per passione, per amore, rinuncio a questa trasmissione. Però il dramma qual è? Che purtroppo con questa storia la storia è finita, ma il mio rammarico è che ho perso una grande chance, una grande possibilità di visibilità, e tutto questo mi rammarica, perché poi la signora non ha avuto ma scusa, sei infamissimo, sei dicendo queste cose. Lasciami sei super infame, scusa, tu hai fatto una scelta d'amore. Io per amore, sei stato vicino a questa donna adesso, che aveva un problema di salute. Ma ha distrutto la vita, perché poi mi ha pure lasciato. Allora facevi il Grande Fratello, oggi è come Flavia Vento, lì ha fatto insultare la contessa Leblanc. Non era il Grande Fratello, non una cosa, lascia stare quello che era. Non mi interessa il programma. Era semplicemente che io per amore e per passione di questa donna ho rinunciato a una grande possibilità che poteva darmi una grande ma il rimpianto, perché guarda la follia d'amore non ammette questo. Il rimpianto, uno deve dire ero folle. L'ho fatto io rammarico perché mi rendo conto era semplicemente scusami se lo dico ma negativo. Era la ripresina, tu volevi fare la ripresina con la signora al momento ripresina? È durata 3 anni questa storia. Ma lunga ripresina. Io l'ho sempre accompagnata, l'ho portata all'ospedale, l'ho portata qui, l'ho portata di là. Ma non ti devi pentire di questo? No, non mi pento. Dico semplicemente che ciò che ho avuto in cambio è zero. Questo dico io. Capito? Quindi tu che Sono ma l'amore per essere tale, cioè per ricordarlo come amore, adesso è un amore disperato, senza speranza, senza esito, se no si chiama matrimonio, coppia, vita tranquilla e contenta, figli, passeggiatine. L'amore di ricordarlo come un gesto folle che da cui non hai avuto altro che rimpianto, quello è l'amore, se no il resto è tranquilla convivenza con un essere umano. Paolo, sei pronto? Sì. Vai, 30 secondi. Sì, buongiorno. Io ho sempre avuto una passione per lo studio, da giovane volevo laurearmi in architettura, e al tempo però questa facoltà non dava possibilità di lavoro se non per figli architetti, insomma, arrivo da una famiglia umile, e quindi mi sono laureato in ingegneria e ho trascorso una lunga carriera dirigenziale a Milano. Adesso sono in pensione, ho 68 anni e mi sono iscritto ad architettura. Personalmente ho sempre ritenuto lo studio molto importante, indipendentemente dall'età, perché aiuta a diventare più curiosi, più creativi, ti fa migliorare. Ti devo dire, Paolo, siamo in un momento talmente di autarchia emozionale e passionale che ci accontentiamo di dire che è una scelta di passione uno che si rimette a studiare all'università. Ma certamente, non farò mai l'architetto. Va bene anche questo. No, va bene, ci sta anche questo. Francesca, dai, Francesca, facci chiudere in bellezza. Pronta? Eccomi, prontissima. Vai, vai, facci sognare. Vado, allora, la mia passione è sempre stata quella dei viaggi. Ho fatto dei viaggi anche scomodi, ho dormito in posti assurdi, magari anche molto sporchi, o anche in paesi considerati pericolosi, tipo vabbè, l'Algeria, parlo di una ventina d'anni fa. E poi sono arrivata anche in Groenlandia, dove la mia passione, anche lì nel freddo e però nella bellezza, si è poi tramutata anche in un grande amore. Ho conosciuto un genovese, per quello che abito a Genova, perché io sono in realtà di Milano, e devo dire che sono molto contenta. 12 anni insieme per il momento, e direi che funziona. Diciamo, tu ti sei iscritta a avventure nel mondo e hai cominciato a fare un po' di viaggetti, no, per no, single, qualcosa del genere, no, e poi hai trovato un fidanzato. No, quello l'ho trovato, vabbè, avevo avuto delle storie comunque a Milano, ma ormai... Sì, ma il genovese l'hai trovato in Groenlandia, però, perché a Genova non l'avresti mai incontrato. Esatto, il genovese l'ho trovato in Groenlandia, sì. E che faceva lui in Groenlandia? Anche lui, allora, lui in realtà dava una mano al capo gita, poi non era avventura nel mondo comunque. Vabbè, queste cose qui, dai, in cui la gente va a cercare fidanzati. Queste gite collettive fra sconosciuti, finalizzate comunque all'esplorazione di territori interiori, più che altro, immagino, perché... No, sbaglio. Ma anche a proprio territori, cioè a me è sempre piaciuto, e a tutt'oggi io e lui viaggiamo perché abbiamo la passione per i viaggi, o meno tutt'oggi, fino a ieri, ecco, diciamo adesso, in questo ultimo anno un po' meno. Però la passione del viaggio c'è, ed è una cosa che piace ad entrambi, anche se, ecco, sono comodi pur da la nota in che giro, cercavo, ecco. Io, che era la nota di follia che distrugge, che intossica, ma della quale noi non ci pentiremo mai, perché in cambio ci ha dato la vertigine di qualcosa che esce dalle regole, c'è in questa tua storia? Assolutamente sì, ho mollato il lavoro che facevo a Milano, dove comunque avevo anche un ottimo, esatto, un ottimo stipendio. E per cui mi arrivata qui, ovviamente la cosa è molto cambiata, diversa, è più difficoltoso, conosco poche persone, eccetera, però ne sono comunque molto contenta, cioè è più faticoso da quel punto di vista, faccio comunque avanti e indietro da Milano perché ho del lavoro anche a Milano da fare, e mi attrezzo in questo modo, ma sono felice comunque. Va bene, grazie. Alla fine, sai, ho cercato di scarnificare fino all'ultimo il senso della tua storia, perché volevo essere appagato che almeno ancora qualcuno fa delle scelte che non siano dettate dalla razionalità, dal profitto, dall'interesse, dal placare il senso comune, che poi è un buon senso molto limaccioso e molto triste e squallido, ma ha fatto qualcosa che tutto sommato si potrebbe dire in nome del buon senso che gli hanno ucciuto, ma a livello di soddisfazione interiore, d'aver osato l'inosabile, comunque qualcosa ti ha dato. Grazie Francesca, grazie a tutti, a domani. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su Aruba.it.